io l'avrei lasciato il baracchino, se l'aveva voluto lui invece che io. Avanti, Max. E una di tre. Va. E ha tre di baracchini. E ha giù quattro. E ha giù quattro. E ha giù uno che mi guardi due. E da sei tre a preso da cinque. Io posso parlare un po', anche perché non ho capito niente nel discorso del campo 2, hai capito? Così che io sto ascoltando a voi che mi arrivate forte, voi io mi leggo dentro dei baracchini. Capito che è successo Mario? Che ha incontrato queste persone che conosceva poco, eccetera, eccetera, e questa qua si è permesso di dirle, questa signora si è permesso di dire ancora la sua età gioca con i baracchini, e viene da me qua. Niente che non trovate il capo 2, se avevano detto a me cosa per i baracchini, gli avevo risposto un po' la capona, però gli avevo risposto sì, gioco con i baracchini, ma gioco anche con le gnocche. Bella che sei, bella guscia. Capo di Paolo, ieri posso venire da un Vela 1 o da un genere Perù e dire che la società gioca con i baracchini. Noi scambiamo quattro chiacchiere, non è che giochiamo con i baracchini. Possiamo giocare più con le gnocche che è meglio, è un passatempo anche più piacevole. E lui ti ha risposto e si è tolto tutto quanto dalla macchina perché ci è rimasto male. Ti immagini? Non lo so come funziona Gianni, non lo conosco. Davvero, non lo conosco io di persona, no, non posso dire niente, ma io, cioè, mi avrei detto non devo niente a nessuno e gioco con quello che mi piace. Perché no, a parte che non erano partiti loro, se io gioco con baracchino o meno. E poi ci sei riuscito nelle camere di mezzo, anche uno a me non mi può venire a dire cosa voglio e cosa non voglio. Anche che a lui non lo sei venuto a nessuno, tanto lui gli impara di piacere. Oh già, scommetto se sapevi una cosa del genere ci sarei riuscito io. Stavo uscendo, no, Italia, KK. Adesso anch'io sto pensando di prendermi la colazione. 2 secondi di bianco che vado in bagno, insomma la faccio addosso. Ma quelle sono antenne che ci hanno 40 anni in ogni momento. Sicuramente. Ok. vediamo Luca, avanti di nuovo. Cazzo, allora, adesso mi alzo, vedo la mangiare questo cane, ma è il cane. Mi assento 10 minuti, dai. Vabbè Luca, ti hanno sovramodulato comunque, vabbè dai, ho capito solo che ti assenti, dai, poi magari se ci siamo io rimango ancora qualche minuto, poi anche io vado a mangiare e poi mi guardo se non vogliamo per te partita, dai, purtroppo ci sono i simpatici, ci sono sempre. Avanti Luca di nuovo per salutare a chi non ha sentito, va bene, ti facciamo salvato, l'hai sentito a Luca? Sì, sì, perfettamente, ho sentito che c'è qualcosa sotto, non ho sentito perfettamente, non vuoi essere fatto il tuo, Roberto? Infatti, boh, mi sembra strano. Mario. Attenzione Mario. Ma io mi stavo levando sempre più basso. Devo passare da 3, poi stava scendendo verso l'1. Ma anche a mettere in orizzontale, utilizzare l'orizzontale, salvato e orientarla verso di lui, non più di 5 salivo. No? Dico, il primo passaggio mi è arrivato 3, poi ho visto gli altri passaggi sempre di meno. Ho certe azionarie, però non ho in condizioni buone stare uscendo. Meglio che stacchi e riprenda quando c'è un'antenna buona. Senti, ma qua arriva Santiago 9, però lui ha detto le stazionali erano 9-2, ce l'ha buttata sopra l'antenna TV, il maestrano così basso. Sicuramente non è l'antenna, ma se ci metti, metti lo stilo solo della mantova, metti solo lo stilo appoggiato così. No, ma è troncata, se non c'è lo stilo troncato, non è capito, troncato, piegato a 90 gradi. No, lo sapevo, l'ho sentito, io pensavo che si fosse troncato come quel pezzo che mi ha portato, no, che tu hai visto, pensavo che si fosse troncato quello lì. No, no, proprio il coso verticale, l'innesti, dai, il telescopio. No, ho capito, ho capito. Come dico. Il vento era forte, magari ha già mezzo partito, l'antenna. Sì, da me quando mi ha troncato, ripeto, in certo punto era forte. Basta guardare i danni che ha fatto, non ha visto il vero cosa i danni che ha fatto Roberto. Già l'ho visto, ma hai visto tu via San Paolo, la salita di Calcabria, non c'è cos'è un ristorante di lì, mi ha scoperchiato tutto, non l'hai visto? Quando sono sceso da te, quando è venerdì mi fa? San Paolo? Ma San Paolo ristorante, ma quel San Paolo qui sta dicendo, quella. Ma non la Chiara no, perché voi non vedete la Torrese. No, passando la cavalcavia, finito la cavalcavia, sulla sinistra, prima di arrivare a girare a te in via del Porto Torrese, non c'è un ristorante, da che qua? Cos'è il ristorante messicano mi pare, cos'è? Sì, sì, sotto cavalcavia, ho capito, no, non l'ho visto, grazie, sì, perché c'aveva delle coperture leggere. Sicuramente gliela tirate su, gliela tirate. Ho visto c'era gente che stavano sistemando, perché c'erano roba di, non so se si è fatto da fuori di qualche cosa, ho visto che stavano tutti sistemando. Io sono sempre qua, eh! Adesso ti ho sentito, poco fa ti ho lanciato Roberto e ti sentivo, ho detto, ma magari aumentato le stazioni e mai l'hai attaccato per il sicuro. Ok, no, niente, ti voleva dire, ti ho lanciato Roberto perché si è attaccato Luca per salutarlo, ma ormai ci è già attaccato Luca, quindi. Mi piace comunque Mario. No, a me mi hanno suonato il campanello e adesso ho dovuto ascoltare. Ed era mio figlio che era senza chiave, che è venuto a pigliarsi il cagnolino a portarlo a passeggio. E niente, no, ma quell'antenna sabato io la recupero lì, non è che la butto via, no. La recupero e la do a mio figlio, se la piazza dalla suocera. E così modulo anche lui. Niente, io qui mi metto la turbo. Ti ho detto che stamattina ero a Tarra, che sono passato anche a casa tua, ma non ci vedi. Sono andato da Vulcano. Ho capito, capito lui che la sta portando? No, capito lui? Mario si è passato anche qua da me, adesso è a 8. Attenzione Mario. Ehi, dimmi. Sono un po' roccellinoso. Mario, ti sei abbassato ancora il segnale, stai attento che non so di niente. È molto basso il segnale, non fare passaggi lunghi Mario. Vieni solamente, ma lui te la sta procurando a Cagliari? Fa. Ok, va bene, adesso ti sei abbassato di molto. Si è partito a 3 da qua e si è sceso quasi a 1, si è sceso, quindi non esiste per stazionare, non c'è che trovando. Voi battaglia, che non si trovano ancora, magari c'è qualche minuto per dire queste cose, come diceva prima Grassi, vabbè, prima Grassi ce l'aveva l'antenna, adesso non c'è più niente nessuno. Io ho preso da lui, due le ha preso, però le ha fatte arrivare, la 5 e la 1 le ho preso da lui. Ma c'aveva anche quelle della Cassidia, quella della Silvio mi sembra, quelle che si assomigliano alla mattola che hanno la bobina trasparente. Vabbè, diciamo c'era poco marcato, lui magari per quello di inutile che le tenga. Anche Decibel ce l'aveva pronta, ma vai a comprare Gianni, a me costava 140 euro la Turbo, 120 la 5 e 110 la 1, questi assurdi. E quelli di me lo costavano, io questi non li so più, io ho fatto arrivare anche da fuori questa qua. Quando mi sono trasferito su questa Coppa, vabbè, io la manto la Turbo, sono andata a smontarla e ne è scesa Pizzi, ne è scesa, quella che c'avevo delle portose. Allora mi avevo ordinato la PKV, la multibanda, no? La PKV. L'ho piazzata, l'ho tenuta un mese, e poi me l'ho scesa e mi ho preso la Mantova. Lo so, infatti sta un po' meglio la Mantova. Sta facendo una novità di Capri, l'hai sentito? Cosa è successo? Non so se sarà ascolto, lo ripeto, tu non eri presente, ha detto che Colucci ha finito, non modula più, ha avuto delle situazioni che non ha voluto spiegare, qualche particolare l'ha messo detto, dice sta vendendo tutto, a parte i paracchini, quelli che c'ha, stanno questa la 48, ho smonta l'antenna e non entra più. Scusa, ma non ha l'esame con lui? Io lo so, infatti mi dispiace per quello, dice qualcuno gli ha fatto qualche osservazione, c'erano con frequenza, gli hanno detto qualcosa e ci è rimasto male. Ma per così poco, dai Capri, se sei all'ascolto, schiaccia il condizino, rimettiti in marcia e fregate, dai, io non penso che te... il cazzo non avrei dovuto spegnere 20 volte io, vabbè. Non lo so, domani dice forse se capita, che gli ho detto mi dispiace, non ho avuto modo di conoscere, ti ho detto, se capita, detto, se capita, ho detto no, già so dove stai, detto, probabilmente domani ci passo, così magari ne faccio dire qualche particolare. Perché in quel momento pensavo motivi di disturbi o cosa del genere, magari qualcuno l'avesse, ma non dovrebbe essere così. Certo che sarebbe anche la simile, è antipatico, mette in condizione una persona di nome, non poter svolgere il suo hobby preferito, è antipatico, mi spiace, anche perché le poche volte che l'ho sentito mi sembrava una persona in gamba. Quindi siamo quattro gatti, ancora peggio, siete proprio, già siamo quattro gatti, per fuggire la gente così, ma io mi auguro che non sia quello, vabbè, che sono altri motivi, mi auguro che siano altri motivi, comunque, se tu sapevi qualche cosa, poi confrontano, modulare, là, come si suol dire. Mario, tu sei niente, un passaggio veloce. No, io non so niente, perché lo tiravo fuori a malapena, e non ho capito bene il discorso, cappa. Va bene, ci fai sapere, ci mi farai sapere anzi. E hai fatto detto, mi dispiace, dai, persona troppo in gamba, era, diciamo, non era con uno in muso, già è vivo e veglia, allora non ci sono problemi. Io ho detto, se ci decidi, se cambi idea, siamo sempre qua, finché saremo qua, sei sempre da parte mia e penso che da parte di tutti, non ci sono problemi, una persona in gambissima. Ok, vediamo se nel frattempo c'è qualcuno sul 21, attenzione al canale 21 che vuole entrare. Hai visto la propaganda del cazzo era salvato, io qua sono un'ora e mezza acceso, ma appena acceso c'erano i segnali in FM sul 22, 9.60 stavano arrivando questi spagnoli. Vabbè, lo guarda, è appena acceso, tutto che passa, si può dire fuori, prima mi sono riposato, poi ci siamo fatto una passeggiata con loro dalla Mussuri, ci mancava di mettere sangue, quando Laura non c'era nessuno, ci dalla Mussuri, mi ha detto io ci facciamo dire in macchina, difficilmente usciamo di mia moglie, era l'occasione, qua ci facciamo una passeggiata, noi ci siamo fatto un giro, non siamo andati neanche verso il mare, perché abbiamo fatto un giro così in città, perché con la scusa che entravo poco, poi ci siamo entrati, io mi ho acceso adesso, ma non immagino la preparazione però, perché quest'anno dice il fabbrigeno che ci dovrebbe essere una buona preparazione per le macchie solari. No, invece no, era prevista, Salvatto, però dice, infatti mi l'ho detto anche da poco, ho parlato anche con Marco, l'adiamatore, dice, addirittura ai minimi storici degli ultimi 100 anni, anche se doveva essere come il discorso degli 11 anni, perché sono ogni 11 anni circa le macchie solari, il discorso della propagazione, quest'anno dice ai minimi storici degli ultimi 100 anni, non è una cosa inspiegabile, non si sa per quale motivo. Perché io avevo letto che forse ancora quasi 11 anni diciamo, i picchi forse dal 2010 in su. Bella fregatura, quindi siamo pregati di esserci, lo suoniamo. No, vabbè, noi stiamo parlando di quelli che sono per altre frequenze, io mi riferisco qua nella 27, già ci sono sempre, da tanto sono, diciamo, non sono a lunghissime distanze, parliamo, loro fanno collegamenti a ultra lunga distanza, da noi qualche volta già quelli, poco fa c'era Madrid, arrivava benissimo, in Emme arrivava a Santiago 8, anche di più qualche momento, però, dico, loro lavorano su altri tipi di frequenze, e hanno necessità proprio di utilizzare quel discorso lì, però già li facciamo lo stesso, non ti preoccupare, magari non saranno lunghi come potrebbero essere, però già ci saranno, eh. Io mi ricordo quando c'era la programmazione, ma anche nella macchina riuscivo a fare l'index, non solo, specialmente l'estate, ultimamente è sempre di meno, se tu guardi sono sempre le solite nazioni, quelle che colleghi la Spagna, le isole, le Canarie, la Francia, alcuni punti della Francia, l'Italia quest'anno mi sembra non ho sentito a poco e niente, il sud specialmente, prima il sud ci parlavi come facessimo in qualsiasi locale, specialmente Napoli, Sicilia, quelle zone lì, vabbè. Sì, no, di vero, qualche volta l'anno scorso è capitato, quest'anno non ne ho collegato di persone, diciamo, dell'Italia. D'estate sì, tantissimo, non c'è stato problema. Ho collegato infatti sino all'altro giorno Portogallo, paesi, come si chiama, dell'Est, quelli tutti ex Jugoslavia, quelli, vabbè, collegati, li ho sentiti perché la lingua purtroppo non so parlare, però li ho sentiti. Il collegamento più distante che ho fatto l'anno scorso di San Paolo e Brasile, quello non me lo dimenticherò, dai, perché è durato tantissimo, è stato tanti, quasi un'oretta parlando con questo tipo, poi ho collegato per diversi giorni consecutivi questo, non mi ricordo che si chiamava José o qualcosa del genere, nelle Canarie, ci siamo stati lo stesso tantissimo tempo, per diversi giorni consecutivi abbiamo parlato. Dipende sempre dalla qualità delle antenne e tutto, Allora comunque, mi dispiace che farebbe questo locale, vuol dire roba e basta. Ok Mario, fai un qualche passaggio, dai. Teia, cappa gnappa, e cosa vuoi che ti dica? E anche a me mi dispiace comunque per quello là, molti i collegamenti vedremo quando c'è l'antenna dritta di nuovo. Ma il tuo utilizzi sempre lo stesso, Mario? L'antenna tua è maschio o è femmina? Perché se no ti porto un'antenna femmina, amico, così la fai da drizzare. Che bellina che sei! Ma quello mi pare che sia femmina, non è così salvato. Il nome è Mantova, è al femminile. Gli porto una sigma invece, che dovrebbe essere maschile. Assidio diventa che è maschio. Sì, ma la sigma è l'assidio. E poi la bella quell'antenna, roba, tu mi vedeva che l'ho avuta a Fintino, l'ho avuta. E la coppia identica della... se te la faccio vedere su qualche cartello, la coppia identica della Mantova. Poi invece va bene, non so, quanti ne aveva la Mantova tu, adesso me ne ricordo neanche più, sì mi sembra. Quella ne aveva 12, ne aveva tanti piccoli 12, invece aveva la bobina trasparente, dove c'è la bobina, no, era trasparente. No, l'altro poi mi sembra che ne ha 8 di la Dialini, non è così Mario? E 5 la Mantova 5 e 4 la 1, così se non vuole sbagliare. Poi c'è anche una simile alla Mantova che ne ha 16 la Dialini. Ma poi non lo so. Sì, è quella che dicevo, cioè, quella che ne ha 16 che non la fa, la costruisce la vita che costruisce la Mantova. Ma esiste la Turbo 16, però è quella 144, cioè 16 la Dialini ed è un po' più piccola. E su che frequenza? No, 27 però. No, 144 è sempre fatta dalla Sigma. La Sigma non è la Mantova, non è la Sigma. Non posso dire, no? Mi sembra di sì, forse sì, invece quell'altra che vende le grazie, qual era? Non lo so, ma non che non sia la LEM la vende anche in fuso. Forse LEM, sì. Forse la LEM era, hai ragione. Sì, la LEM. Avanti Maria. E che dire? Non lo so. Hai ancora qualche minuto? punto là, poi mi guardo queste partite. Però guardi l'Inter, Salvatore. Non lo so, perché noi riusciamo a guardare quell'altro programma tra i cinque amici, no, sta, si sta guardando. Non mi dispiace mangiare separato, la destra e la sinistra. Concellina non mi interessa, in ogni caso me la guardo sempre. Ora ci sono tre squadre molto molte, potremmo mangiare insieme, magari, anche però dopo, dopo cena me la guardo, ecco, mi guardo il pezzo del secondo tempo. No, per tirarlo l'Inter, cacchio, va a farlo birri, cacchio. Purtroppo ieri è andata male col Milan. Se avesse vinto, Mari, e Mari oggi pareggiava l'Inter, però ho paura che oggi vinca di brutto l'Inter. Cacchio, non perde colpi, è una squadra troppo forte, cacchio, non riesce a farla. Tu pensi, dicessi questa partita, Mari, è difficile, invece niente, vince lo stesso. Capo, ora ha giocato bene il Milan, non c'è che io sono critico su quella squadra, lui ha giocato bene, io ho mancato solo un gol, ha fatto bene a Fiume, l'ho fatto veramente, la difesa ha giocato bene, ma ho mancato solo un gol, forse se c'entrava dentro il pallone di, o di quel tiro di Utra o quel tiro di Coso, quello di Pirlo, non so, si cambiava la partita, mi ho mancato solo il gol, vabbè. C'è da dire che anche loro hanno fatto un paio di tiri, è stato bravo il portiere Abbiati, perché quello di Muriello, cacchio, ci avesse calciato, non dico di collo, ma l'interno collo, ma calciato l'esterno si entrava Muru, ne buttava la porta, poi quell'altro è stato un po' egoista, va bene, davanti al portiere, poteva anche magari passare, però grazie al fatto che Burdisso l'ha buttato in calcio d'angolo, quello uno contro uno, però diciamo dai, potevi anche perdere la partita. Anzi, quelle partite si perdono, perché poi ti fanno il consultore e le perdi, ma comunque diciamo che se dovesse inciampare l'Inter può essere un risultato positivo, se invece l'Inter vince è un risultato negativo, dipende dall'Inter. E infatti, dopo perdere solo lui il campionato. Ok, vai Mario. Come quindi stai guardi, vabbè. Sì, mi guardo anche con le mani, ma te dovrebbe essere bravo lo stesso la Fiorentina, ecco col Bayern ci avrà dentro avvelenato. Sì, io me le guardavo tutte e due, ma cioè, sai che ti dico che mi pare mercoledì deve essere bella, perché in me non c'è niente da perdere, intanto a me perso A, quindi penso che giochi proprio col cuore non mercoledì. Io dico una cosa, sarà molto difficile, però il Bayern è il Bayern. Manchester non è vice Coppa dei Campioni, non è così forte. Non l'ho visto forte come poteva aver visto il Chelsea o l'Inter, sono più forti. Certo, certo. Non dimentichiamoci che qui escono fuori sia il Barcellona che il Real Madrid. E infatti, ma il Real Madrid non lo vedo favorito, però il Barcellona non c'era scherzato. E anche perché sono squadre che hanno esperienza, sono una vita che fanno le coppe, l'esperienza non è tanto, guarda, l'esperienza è importantissima. Io penso che Ancelotti, l'esperienza che ha avuto in coppa, possa trasmettere sui giocatori e quindi può essere avvantaggiata in quella partita. Però dico, vediamo un po' questo Milan Manchester, perché se il Milan passa nel suo turno, non lo so come va a finire. Inizia a acquisire fiducia nei propri mezzi, perché sai, veniva il Manchester fuori casa con la veramente una carica di fiducia. No, prendete che poi è stato sfortunato, lì è arrivato diretti dietro le doca. Se mai fosse stato un po' più cinico nelle occasioni che ha avuto, guai. Purtroppo qualche responsabilità, però adesso che ha giocato lo puoi dire, lo dovevamo sapere prima, perché il sé non serve a niente, ma con Inzaghi qualche minuto prima forse la musica poteva cambiare, dai, comunque, e allora, come si chiama? Leonardo allenatore, grosse colpe non gliene do. Hanno fatto la partita perfetta, purtroppo hanno fatto, hanno preso quel gol di là, io sicuramente Abbiati non avrebbe preso quel primo gol che ha preso, che si è coricato in terra. Vero, è vero, anche se ti ricordi anche lei stava in giornata, anche lei era un po' una giornata nuova, l'ho fatto, messa di ieri o delle altre volte sarebbe stato più difficile da superare, vabbè. Confermo. Sì, e quindi, mamma mia, domani non è dire, vabbè, si riprende, uia, mamma mia, non è dire più tragico, anche per te com'è lo stesso? Per me lunedì è il giorno più critico, vabbè io prendo tutto il lavoro lunedì per poi consegnare, scusa se è fermato la parola, e prendo tutto il lavoro per programmarlo e portarlo avanti per consegnarlo a fine settimana. Però sulla posta, ma sai che quando poi c'è il tuo lavoro della settimana precedente ti si accumula la mamma del lavoro, non è lì è brutto perché sì, se lo dica sei stanco la domenica, perché la domenica non ti riposi, sei stanco. Mario, ci sei? Ah, sì, va bene, ma quella persona poi è venuta? No, non è ancora venuto, doveva passare, io ho sempre la dichiarazione pronta per fargliela fare, quando viene ti avviso. Non penso si tenga la macchina così di facciata. No, negativo. Asco, niente, era solamente per chiedertelo. Oh, Sabato, quel numero che ho io tuo, ce l'hai appreso oppure ce l'hai in ufficio? No, ce l'ho in ufficio, però non uso solo in ufficio. Non ce l'hai, perché diciamo che non uso solo qua. Vabbè, se ti viene bene tu chiamami che ti devo chiedere una cosa, così che domani mi potrei spiegare meglio. No, prima di poi quando chiudo ti chiamo. Ok, non ho più sentito in questi giorni a Tarino. Ma come mai? Quando è che l'abbiamo sentito? Quando c'era Marco Scorpio? L'ultimo giorno, a partire di ieri, venerdì l'abbiamo sentito. Non è entrato dopo che sono andato meglio. Non c'è, ah, forse lì. Ah, proprio, ma che è successo venerdì? A proposito, stavo parlando un po' di colpo e si è scomparso. No, ho detto che mi stavo allontanando perché avevo suonato a casa e qui sono sceso giù per la chiesa e una persona che l'ha passata a salutarmi, quindi tra una cosa e l'altra si è fatto tardi. Io l'ho lasciato che stavate parlando in quella roba antenna che mi interessava. A te ho detto, ma proprio in questo momento è venuto qui, non ci vede mai questa persona, proprio in quel momento. Vabbè, purtroppo non succede. Ok, io adesso devo lasciare i signori, mangio qualche cosa, ho già sgranocchiato un pezzo di pane adesso, non so se ve ne siete accorti. Vi saluto, ciao Mario, ciao Salvatore, amici eventuali di tutti in ascolto, dai, saluto a tutti indistintamente. Mario, ci sentiamo domani per telefono, Salvatore. Ciao di nuovo a tutti. Sì, no, ma anch'io chiudo perché non ti avrei la partita. Sì, saluto anche a te, con la familiare, buona carica, se vuoi ancora caricare. Sì, anch'io chiudo che mi vado a mangiare e vengo la partita. Cazzo, noi ci sentiamo la mattina. Non ti rimane per i saluti. Ciao, vabbè, buona carica, buon tutto, saluto nel Correa e... E buon inizio di settimana per domani e ce la risentiamo. Ire per te, Sabato. Buona carica, buona visione e buon tutto. Ci risentiamo. Fammi quella massa che ti devo chiedere una cosa. Ah, ma sì, ma il tempo di spegno, chiudo, scendo giù, accendo il telefono e ti chiamo. Ciao Mario, ciao Roberto, ci sentiamo domani. Ciao! E quindi capisco due c'è la sciascia. E non lo sono rimasto aspettando. E manco io, una passione che c'è. Ma ti pare per una tipa che gli dice una cosa del genere? Ah va, era così tu, hai fatto gli affari tuoi, cioè non sono affari che ti riguardano, quello che faccio io in casa mia. Ma sai cos'hai detto? Che è chiaro, Baracchino è considerato l'imbecille del paese, che è avanti. Chi sei? Passo, se non ho capito chi sei. Ripeti. Boh, io non lo sento più, non per tu lo senti. No, non è attivo, non arriva qua. Mario, ho capito, Mario. Perché Mario Mansa? Mario Mansa? Davide da dove? E dove sei? Ah, sei bassissimo Davide, è il figlio di Mario a casa della ragazza, con che antenna stai uscendo? Ah, è basso sì. Basso. quando ti piace l'antenna 9 magari ti sentiamo meglio. Vaga, Davide, non so se lo ascoltate voi. No, mio mio, sento qua già. E la te fate? No, no, negativo, negativo. Pio, pio, pio, pio, ma proprio piccolissimo, quasi compressivo. Ti sento solo io, Davide. Falchetto ti sente ma non capisce cosa dici. Picca, vai. E vabbè dai, magari messo in un'altra posizione. Dove l'hai piazzata l'antenna? Per quello magari è bassa. Magari se dall'ultimo piano saresti uscito meglio. Cavaga, va dai. Va bene Davide. Buon quel che ci ascolta allora, io ti sento a malapena tutto. Mamma sa ne ha sì con l'antenna, perché pare strano. Avanti, farti far. Campa di noce. Eravamo arrivati al punto, sì, lui ha sbagliato, lo doveva mollare e basta. Doveva rispondere a dovere, ok, dai. Niente, riprendi già e fai girare per Natalino. Ma poi si sa come sono un po' condizionati da quello che dicono gli altri, cose, non è una mentalità diversa. Bravo, bravo, bravo. Pazienza, se vuole rientrare lo accogliamo a braccia aperte, però veda lui. Avanti Natalino. Infatti, è un peccato. Pare ti stava cercando l'altro giorno. Vabbè. Ho detto, buon Natalino sarà uscito, non lo so. Forse, eccomi qua. Poi Antoni Gau. Gau, c'è qualcosa spesso, ce l'ho anche. Pollo. Il pulsante dell'ecco si è inserito, adesso si è, lo accede, lo si accede la spiglia. Quella rossa, no? Quello rosso, il tasto. Ah, quello rosso c'ha due punti a mano in sala. Beh, dai, riprendo io, posso? Vai. Per i saluti, dai, che io faccio il QRT e niente. Auguro la buona notte a tutti, a te, Natalino. Antonio, Vela e anche all'eventuale ascoltone. Ce la riascoltiamo tutta alle migliori. Ciao ciao, buon trabacco per domani a tutti. Ciao ciao. Ciao Falche, buonanotte. Buonanotte. Ciao Anto, buon trabacco per domani, dai, ci sentiamo alle prossime. Ne approfitto anch'io per chiudere. Devo cenare, ci sentiamo più, cioè alle prossime, non più tardi, no, non fa. Va bene, dai. Salutami a tutti, dai, guardati anche per me. Ciao Natalia, buona cena, dai. Avanti Natali, buona cena. Ci sentiamo. Gianni, ti volevo chiedere una cosa. È migliorato il segnale rispetto a ieri? Che mi sono accorto che c'era una cosa, mancava un po' di alimentazione, poi ho scoperto cosa era. 2.25. No, va bene. Va bene, il solito segnale. Magari, non qui sì, non col coso. Galassi. Col Galassi, che si sente? C'è differenza. Ma il Galassi se gli aprire le incisi, questo che è normale, normale. Non intende che c'è Natalino come esce? Ah, ho già esce bene. Va bene, bene. Tanto, diciamo, spingilo troppo lo fa, perché te lo rovini poi. No, no, lascia stare lui, sto usando. Aspetta, 10-10. Avanti, 10-10. Avanti Alessandro, tanto lo sai che non puoi aprire bocca con me. Ciao ragazzi, non riesco a togliere, sai che sto succedendo dal parcheggio? esci dal parcheggio. Quanti intorni ti sarebbe avuto di birra? Oh, guarda, lascia perdere. Stavo guardando la partita che c'è, Genova... cos'è, Inter o cos'è io? Mi sembra qualcosa del genere. Quindi a Fiumi. Cosa? Me ne sono fuggito, a me non mi piacciono le partite di pallone. Porca me. Se me ne sono fuggito, in libosi, ah, fuggi da inghili. Sono riuscito a bere la 33, ciao, La vagata. No, vabbè, non io sono appassionato, Mio padre era molto tifoso, anche si guardava anche molto il pugilato, il ciclismo. E che abbassava? No, ma a me non mi piace di proprio, mi piglia mari, mi piglia l'angoscia, sentire il tavolo sargento a voce, cazzo per un pallone, ma buffo. Arrivederci al secchio, già sono bastate un bicchierino di birra e via. Ero grido. Ha ragione, Gerasse. No, ero con mio fratello e dottoria poco fa, ma mi sono forzato un po' per i cattivi. Avanti, Andrea. Fa cappa. Comunque mi sono divertito un bel già, Faggio, sì. Fatto dei giri spettacolari. E anche a Marco. L'ho fatto sedere sul bruco, sulla giostrina dei piccoli, poi sui rischi volanti. Ma tu già c'è stato dentro con le macchine dell'autoscontro, sì? Non mi sono più seduto, nei rischi volanti ci sto, le gambe non mi ci sta. Scappa. No, io devo trottare forse. Sai cos'è? Che esagero troppo, Poi dopo mi sento più rilassato, perché mi stanca un pochino. Io addirittura gli davo la rincorsa col piede, la macchina autoscontro quando la fuori a lui. Facevaci di capo, il vostro gli era ammalettone. Anche lo facevo quello. Praticamente mi mettevo seduto col piede solo sopra il pedale, mettevo seduto sul bordo e col piede gli davo l'accelerata. Lo primo che capitava l'attaccava lui così si infinava pure la macchina. Come ti ricordi al bordo, boom, se ne misurava. No. Hai visto quando giri tutto lo sfera con quella macchina? Fanno una retromarcia. Ho mangiato un sacco di giri così al centro di pizza. Tutto in retromarcia. Io lo so, Se ti stai dicendo che ci ho lavorato anni, nel senso quando venivano vicino a casa per e basta, i mesi che ci stavo, lavoravo e poi loro andavano al vero, io non li seguivo. Passasse la stagione di Sassari facendo. E allora? E le macchine di pigliavano, prendevi la macchina che c'era in mezzo alla pista, la prendevi, le giravi lo stretto di colpo e la facevi parcheggiava da sola. Ma sì, già ho visto come bisogna fare. Mi divertivo però, perché stavo togliendo con la chiave girando, conosci il numero di ragazze, la cosa. Avanti, Alessà. Per favore, ti copio a malapena, Tu sei con questa antenna e ci avvisci, vi la vai a ponere un'antenna in grazia di te, o chi ci rompo. Avanti, chi sei? Cosa, carburo? Per favore, non so confiante. Era il bipedialista. Buongiorno, bravo, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao casa sua, se l'ha provata. Sì, era a Sassu. Cosa? Usciva a Sassu. Sassu usciva. E quella cosa l'ho provato lì là, dove gli avevo io. Non lo so, non lo so, non te lo so dire. E che tu vuoi regolarla, in caso usciva a Sassu, vuoi di regolarla. Non lo so, ce l'ha fatta. Però ha detto prova così, probabilmente stava arrivando, ha detto prova così, no, c'è stato lo stesso. E quando c'è stato io lo dico come c'è stato, se no lo dico come c'è meglio. Ebbè, se la se i rapidi 15 watt non ce la fa, cioè se c'è troppo alto, quindi 10-12 watt è rapidissimo. Fa troppa entrata, così. Beh, se vuoi 20 watt di dorso, io non so che apparecchio sto usando, la verità. Però se va a 12 watt, tranquillo, lo fa benissimo. Che musica lo stavo usando? Vedo, domani anche mi sto usando, io lo faccio regolare io, come... Ma poi, se volete, lo fate parte 2, quindi parte 2 c'è bene. Con quella geggio, quindi riuscirebbe anche lui, solo... vediamo di allineare, c'è dei bruttini da regolare, capito? Ma da quanto è? 150? Non so che ti ricordi. Da quanto è? 150? 124, mi piace 50 di più. Ah, quello che va a capo 2? Sta uguale. Ah? Ma che non lo sapevo, capito? Alex, non ho capito che ha detto. 150. Come quello mio è quello che ho trovato, il valore a 100, 150 watt, 120, non di più. Ne ho due di quelli, a chi serve uno glielo prendo. Che cosa? Da più di sì. Con un microfono amplificato io, mi sono curato nel 300 e ho lavorato con lui. E capito con quella gente esce benissimo, esce perfetto, esce. Solo con lui è chiaro. E ma adesso stasera la notizia che ha chiuso i battenti non entra più. Guarda, non l'avevo sentito la mattina, ma come quello di stasera, capito, cioè... da parte sua perlomeno. Non ci trovo per niente che siano tutte quelle scuse che ha detto lui, c'è la roba sotto, c'è la futtizzini. Gli metto lingua. Capa. Avanti, bombolino. E Alex, no, finalmente va in scioro, così. Già ce ne ricordiamo, devi aspettare il tuo turno, Alex. Però ecco. Avanti Alex. No, no, avanti Bubolino, non proprio. E non è, invece si è dormito, ripetete. No, era sempre lo stato. Come che avevo uscito quello? È arrivato 7.5 Alex che è pure sparito. Così è fatta mola. Chi Alex? Ehia. No, è a domo. È a domicilio, adesso salisse per riprendere a casa. Ah, vabbè, non l'ho più visto io, addirittura, mi hanno rifatto quello. Ma quando ho capito casa, il discorso per me è una cosa così passeggera. Scendo solo a trovare quella amica là. Ogni tanto, guarda, mi piglio, mi piglio la birra camminando. Appaga, non trovo un pompo, sparito. Boh, dove sono andato in bagno? Buon freddo, ora già sono fatto la scuola, mi stavo pisciando io, cazzo, assieme a lui. Massimino, che quella fatta mi ha staccato il filo dell'antenna a nonna. Mi rispetti la faccia? La gatta. Ma lì si è sentito bassissimo. Anche a me. E che stava parlando allora? Non lo so se è il tubo, adesso sei forte. Non ho toccato niente, Stavo dicendo poco fa che c'è un freddo stasera, che mi trovo, quando sceso a scuba a pisciare, mi stavo pisciando anch'io insieme a lui. Ci credo, c'è un bel freddo, poi il cuscino altro. Sì, anche in campagna c'era, guarda, lì si stava bene. Non hanno voce a finire col lavoro, così almeno dopo con la detettivi, con la campagna. Paga, paga. Già riuscito a vendere? Sì, abbiamo finito quasi tutto. Io mi sono attaccato con il scambiatore, ho fatto quasi tutto il pezzo. È pesante, ma tutta la natura è pesante il scambiatore. Cosa è da principio a lungo, non so se la cinghia, capito? Quindi ha preso molto nel braccio, questa cosa che gira detta sinistra, sinistra, destra, è pesante. Pensa la cinghia, se ti scappa? Sì, se scappa, già sto attento. Come mai sei la cinghia? Se la cinghia per mettere una spalla lì. Quello lì ti aiuta un bel. Non so cosa mi fa a parlare così. Perché mi sono abituato io. Poi ho comprato qualcosa, la specie di moto zappa elettrica. Quella non mi piace, è presente. E tanto funziona bene. Quella elettrica? Sì, io. Quella che vedono anche al televisore. Sì, l'avevo comprata. Tanto non funziona bene. C'è un po' di risparmio, c'è, perché la moto zappa normale ci deve mettere la benzina, ci deve mettere l'olio, e più a volte non accendere il ci vuole anche un meccanico quando sta un po' di che tipo ferma. E quindi con quello lo accendi quando vuoi, attacchi la corrente elettrica, lo fa. Bombolino. Dimmi, non lo sento io a Pomponio. Ah, pensavo di sì. Cava, cava, cava. C'era anche Alessandro che doveva tornare a casa, chiamo. Sandro, ci sei? Flex. Metto che riprova la casa sua. No, vabbè, forse è il momento di salire, dai. Avevo ragione io, sto mangiando Alex, senz'altro. C'è cosa c'è Fabrizio? Buonasera, buonasera, avevo ragione io, eh? E voi non ci volevate credere. Che cosa Fabri, buonasera? Ah? Sapete che avete andato al 21 e voi siete andati, cazzo, visto là? Avete paura di tornarci. Ah, non è quello lì, Fabri. È che abbiamo deciso di venire qua noi. Vabbè, dai, già hai detto, cazzo, con una voce alta, di andare via e voi ve l'avete fatta addosso. Fabrizio, fa da bravo, non svegliare che anche dormo. Ah? Cazzo, blu, allora scegliete con altro canale, non fa la 5, magari tipo il 30, roba così. No, invece era il canale dove modulavamo prima, ci siamo ritornati, tutto lì. Finché quello, ma sperando che quello ti mandino via che da qua. Più lo ti manda via, vabbè, non è come dici tu. Noi ci siamo frustrati perché non abbiamo voglia di sentire. Lo sai. Ah, dai, sto scherzando, va. Gappa, gappa, comunque buonasera a tutti e due. Non so se c'è altra gente, se c'è Pierpaolo o chi. No, c'è Alessio. Antonio, io e Alessandro Alex. Ma io Alex non ho sapere niente, tu. Ma Alex dove si trova? Serra Secca, Alta. Negativo, non ho sapere niente, studio Santiago zero. Cavagava. E invece la cosa lo senti. Come si chiama? Alessandro. Fammi avanti. Messa. Quello non doveva aver attaccato, perché nel macchina detto che si arriva a casa. Io non sento più niente, Alessio. Ma non sto usando la pena sul tetto. E Alessio, no? No, non sento per niente. Quelli ormai siete una buona, buffa. E va, c'è un'antenna di baracchino di quella di macchina. Calagava. Avanti, Antua. Sono per una piccolina, cioè, messa così, dai. Poi si deve analizzare un po' meglio, vorrei che lo sentirai. Vabbè, e poi se la secca è già un'altra, la modalità è la stessa anche con l'antennino. Non so, ma se no, se no c'è al 100%, no, se non è efficiente, non lo senti. Andare, com'è la mia modulazione, ma tu? Benissimo. Beh. Credo che va benissimo. Grazie, Rocci. Avanti già. Ehi, avanti. Io sto credendo che domani devo andare al lavoro, dai. Sono tutti cordialmente, vi auguro buonanotte. Ciao, ciao. Dopo lungo letti. Andare già, ciao. Buonanotte, stammi bene. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, buonanotte, Jay. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Il bombonio? Sì. Ma quello più io sì, qua, Cosa? Ti sento la malapena. Devi passare l'FM, adesso lo senti, se lui ti sente a te. Ma mi sa che lui non sente a lui, se tu metti l'FM io devo fare anch'io. Ti funziona? È strano, ma non lo so, non so se funziona la trasmissione, prova a andare a vedere. Diverso, capito, questo modello qua non lo puoi regolare, invece gli altri sì, tanti altri caccioli per regolare anche l'inferno, invece questo no, ti dà i 100 watt dell'apparato, vabbè questa è la 120 perché è modificata, 120 a tutti in FM non fissi, non li puoi regolare, invece negli altri modi di emissione sì. Vabbè, infatti aumenta il segnale pure. Il cazzo, adesso c'ho, adesso c'ho 20 watt modulati, ma se da 20 a 100 la differenza c'è. Stavo dicendo, ma sempre con quel cavolo di polo. K. E ha capito. Adesso io. Adesso ci sono 20 watt modulati. Sono 15 20 modulati. La M è questa. Questa qua è da, diciamo, ci manda perfettamente originale da 100 watt. In tutti i modi di emissione. Se l'ho modificato è. In M da 130, così, a fare del genere, e poi portare da 0 fino a 130, invece se anche M ti dà tutti quanti, non li puoi modificare, ti dà solo, ti dà tutti in un momento. Ma perché non fai una cosa, non ti metti una verticale anche piccola? No, guarda, non mi voglio mettere in verticale a tre ragazzi, poi cazzo, se mette a tre ragazzi poi mi tocca schiacciarmi. No. Piccola, non grande, ci sono le storie, le standard, sono sempre nei così. Che vanno molto bene, si fanno sentire tantissimo. Io lo so, ne ho faccio due numeri a nuove, mai utilizzate. Quella corta l'ho usato un po' di volte, poi c'ho gran plena, a tre radiali, a quattro radiali, e ne ho antenne, guai, se pensate che un'antenna che ci vuole due terrazzi, non me ne frega niente di piazzare niente per la 27, capito? C'ho questo di polo che poi tra l'altro lo uso per ascoltare da altre parti, capito? Probabilmente va bene così. Poi quando si saliva sul tetto piazza la mantua 1, 2, una nuova non usata e un'altra usata. Capite? Una ce l'ho piazzata a fissa più piano nel mio cucchiaio aggressivo. Mi senti un'antenna piccola, per lì va bene, cosa di napoli. Almeno è più forte anche. Mi dai quel pochettino di fatto va alla grande. Poi è un dipolo che è puntato, è direttivo, è puntato verso il mare, quindi in poche parole si è contrario al dipolo, capito? Quindi in proporzione non arrivo male, per avere un'antenna puntata alla parte opposta. E così magari per la parte della città non è che arrivi tanto bene, perché l'ho puntato verso il mare perché mi interessava ricevere segnali dal continente o roba del genere. Fabri mi si fa paura, dai. Buonanotte, ce la risentiamo, gamba. Fate che io voglio andare a lavorare domani. Allora. Faccia andare, fai festa. Tu. Va. Non quando andare a Marco Bio. Ma chi è che sta parlando? Avanti. Mi senti tu, sì. Carburo. Vedi coppio. Va. Certo che devo andare, no. Va bene, dai, buonanotte a tutti. Tu non ci andare, cosa ci vuoi fare? Vai, sotto tu ti stanchi. Non andiamo a questo. Domani fai festa, la te ne frega. Appunto, poi vengo a casa tua a mangiare. Ti preoccupare, la c'è qua a mangiare. Faccio un piatto e pasta asciutta in più, c'è problema. Andare a tu là, buonanotte, buon trabacco per domani. Ci sentiamo alle prossime, anche io mi faccio un girettino e poi chiudo anche io. Ciao, K, un salutone anche qui del canale 21 che ci sta ascoltando. K.